Troio, tormento, sfogare il contento, potrò d'alta voce chiamare schietà, gorilla l'ingrata, morire potrò. Nel torrido albergo ricetto di me, potrò il mio tormento sfogare il contento, potrò morire, potrò.